Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, partiamo dalla Croazia, una Croazia che oggi ha accettato e ceduto alle pressioni della Commissione europea e ha deciso di cambiare al più presto e senza condizioni la legge che limitava l'applicazione del mandato d'arresto europeo, rendendo estradabili dunque tutti i criminali di guerra e gli assassini politici, anche per atti commessi prima del 7 agosto 2002, dunque una questione politica che di fatto sottintende proprio la storia recente della Croazia, la questione sostanzialmente legata ad alcuni generali considerati diciamo eroi dal governo, criminali di guerra invece dalle assise internazionali e sul quale di fatto si era arenato in qualche modo dopo poche settimane l'ingresso della Croazia nell'Unione. Quindi la decisione di Zagabria è stata presa questa mattina. Accordo raggiunto ieri sera invece a Bruxelles tra Europarlamento, Consiglio, Commissione europea sulla riforma della politica agricola comune. Sentiamo. Anche gli ultimi punti negoziali sono stati alla fine chiusi. Dopo l'intesa politica del 26 giugno, le tre istituzioni comunitarie hanno varato la riforma della politica agricola comune europea. A tutt'oggi una delle principali voci di bilancio del budget comunitario che tiene in vita con forti sussidi la produzione alimentare nel continente. Sono soddisfatto, ha commentato il presidente della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento Paolo De Castro. Secondo De Castro, in base all'accordo, la riduzione degli aiuti più elevati che l'Unione versa agli agricoltori diventa per la prima volta obbligatoria. A beneficiarne sarà chi riceve di meno. La riduzione sarà pari al 5%, oltre i 150.000 euro di pagamenti diretti ai produttori. La decurtazione potrà però essere evitata qualora lo Stato interessato ridistribuisse ai piccoli agricoltori il 5% dell'ammontare per il proprio paese. Salirà inoltre all'85% il finanziamento comunitario per le misure di sviluppo rurale nelle aree più depresse. A ottobre l'Europarlamento dovrebbe dare via libera definitivo alla riforma della PAC. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24. E ora parliamo di competitività, il rapporto UE e per l'Italia non ci sono buone notizie. A differenza della Spagna, l'Italia non riesce ad agganciare il gruppo dei paesi più competitivi d'Europa, che comprende ora ben 11 paesi, dalla Germania alla Svezia. Al contrario, il nostro sistema industriale schiacciato dal peso di troppe tasse sul lavoro e di una asfissiante burocrazia perde terreno. Sull'Italia incombe così lo spettro di una vera e propria deindustrializzazione, fotografato dalla perdita di ben 20 punti percentuali dell'indice di produzione industriale dal 2007 a oggi. L'allarme viene lanciato oggi dalla Commissione europea nel rapporto 2013 sulla competitività. In base all'analisi di Bruxelles, cuneo fiscale e peso della pubblica amministrazione sono le due trappole che ostacolano investimenti italiani ed esteri. L'Italia, sebbene membro del G8, non viene quindi inserita nel gruppo di eccellenza economica. Restiamo invece relegati in un gruppo di mezzo con Cipro, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia. Enrico Brivio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In conclusione, abbiamo parlato più volte in questi giorni del fatto che le prossime elezioni politiche europee saranno anche l'occasione chiesta a gran voce di fatto da tutti gli schieramenti perché sia indicato dopo il voto del Parlamento europeo il presidente della Commissione europea, quindi dell'organo esecutivo che dovrà succedere al portoghese Barroso. Bene, tutti sanno che questa sarà l'elezione della svolta, ma finora nessuno si era spinto in avanti. Adesso possiamo segnalare Guy Verhofstadt, quindi belga, già ministro, già commissario, e che in un'intervista rilasciata ai nostri colleghi di Euronet Plus ha fatto come dire, una sorta di outing sulla disponibilità ad essere presidente della Commissione. È il primo candidato ufficiale alla corsa che di fatto si concluderà solamente nel prossimo mese di maggio. Bene, con questo è tutto per Europa 24 che torna come sempre domani intorno alle 13:15. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.